Adesso ti trovi con i tuoi simili. Sei giovane, maestoso e tutti si inchinano davanti alla tua forza. Non diventerai superbo, lo so, perché il tuo cuore conosce la sofferenza. Arriccia bene le penne, allunga il collo flessuoso e vivi felice. Finisce così, questa favola breve se ne va. Se ne va. Il disco fa clic e vedrete fra un po' si fermerà. Si fermerà. Ma aspettate, e un altro ne avrete. C'era una volta, il cantachiave dirà, e un'altra favola comincerà.